letterale come la non perenzione, che ha una connotazione ideologica abbastanza precisa. È l'internazionale del gruppo dirigente occidentale, questa è l'idea intorno a cui si muovono questa serie di associazioni. Ed è in qualche modo quello che ha fatto da incubatrice a una delle cose di cui ci occuperemo, la cosiddetta superclass, che è uno degli effetti sociologici più rilevanti dei processi di globalizzazione. A questo ci arriveremo fra qualche lezione. Seconda cosa, mi è stato chiesto se praticamente la domanda era relativa al modello di sostenibilità del sistema, il problema ambientale, quanto i modelli di sviluppo economico possano prescindere da un realistico calcolo sui livelli di sopportabilità dell'ambiente. In effetti questo è uno dei problemi centrali, dedicheremo una lezione intera al problema delle sfide ambientali. Posso dire una cosa, che effettivamente nessuno ha il coraggio di sostenere che il problema ambientale non si ponga. Il dibattito piuttosto tende a porsi in questi termini: sì, un'emergenza ambientale c'è, ma non ha i tempi, l'urgenza e la gravità denunciata dalle associazioni ambientaliste. Il mutamento climatico è un po' una balla, non è vero che ci sia, ma ci sono le foto ai poli che indicano scioglimento degli ghiacci, sì, ma non è così tanto grave. E poi guardate, basta un'eruzione come quella del vulcano islandese per avere effetti molto più devastanti, per cui non possiamo sottrarci al rischio della natura. Non siamo soltanto noi a intervenire, è la stessa natura di per sé che è importante. Questo è il tipo di obiezione. Ah, evidentemente notare una cosa, come in materia di olocausto, eccetera, si moltiplicano le proposte di legge per punire penalmente i negazionisti. Quando io scrissi un articolo, mi rispose un mio vecchio amico personale, attuale vice capogruppo al Senato del Partito della Libertà, Gaetano Valeriello, docente di storia contemporanea, per dirmi che ho sbagliato, perché io la ritengo in termini di libertà di opinione, pur essendo io accanito antireligionisti e antireligionisti. Mi rispose: un conto è la libertà di opinione e un conto sono le falsità. Loro dicono delle falsità. Ora, precisa il fatto che appunto la libertà di opinione presuppone anche la libertà di errore e, se volete, la falsità che va dimostrata. Ma è divertente notare come su una cosa come il dibattito sull'Olocausto si ritiene che una falsificazione scientifica sia degna di sanzione penale, mentre invece nessuno pensa a sanzionare penalmente i negazionisti del mutamento climatico, che forse avrebbe anche qualche effetto pratico un po' più devastante per gli abitanti del pianeta. E questo della dice lunga sul carattere ideologico. Sono contrarissimo a qualsiasi misura penale riguardante il dibattito scientifico, sia chiaro. Però questo è l'esatta misura di quanto sia ideologica la posizione di chi chiede la penalizzazione dei negazionisti in un caso e la immoralità. Fatto sta che il vero problema è la presa d'atto di questo, e la difficoltà maggiore qual è? Ciao Paolo, la difficoltà maggiore è sostanzialmente il pensiero corto a cui è pervenuto il mondo nell'epoca della globalizzazione. Uno degli aspetti, non tanto da diversi intellettuali, ma per esempio uno, Maclazar, eccetera, è il fatto della perdita della prospezione strategica. Le stesse previsioni, ad esempio di natura economica, difficilmente si spingono oltre 3-5 anni. Non ci sono più studi che in qualche modo portino fino a elaborare scenari futuri complessi di lungo periodo. In questo mi piace che la luce ci sia. C'è un po' un riflesso non voluto di una certa critica allo storicismo fatta per esempio da Popper. Io poi vi spiegherò perché secondo me l'ha chiesta Quadrando in questa cosa, giusto che io ne parlo di un po'. Io personalmente condivido la critica allo storicismo fatta da Popper, però ritengo che abbia anche delle ricadute sulle quali bisogna essere molto cauti, ma ne parleremo. Ultima cosa. Una delle ricadute è quel pensiero corto che impedisce di porsi un problema come quello dell'ambiente, dove un'emergenza fra 40 anni è dire domani mattina, perché date le proporzioni del problema e dato la necessità di intervenire oggi per una catastrofe ecologica che si profilerà fra 40 anni, già tardi. 40 anni sono domani mattina per i tempi di evoluzione dell'ambiente. Ma 40 anni sono un tempo immenso, infinito per la testa delle nostre elite politico-intellettuali, finanziarie di oggi. È tutto misurato sul guadagno a breve, ma di questo ne parleremo. Ultima cosa. Un'aggiunta al discorso sull'inefficienza del modello keynesiano che mi è stato fatto presente. Cioè, vabbè, ma noi la svolta neoliberista l'abbiamo fatta perché il modello keynesiano era inefficiente. Capiamoci. Intanto, attenzione, il modello keynesiano ha funzionato per un quarantennio e obiettivamente non si può pensare a un modello di sviluppo, un modello economico che abbia una durata tanto più lunga. Quindi in qualche modo è normale che qualsiasi modello di sviluppo abbia una sua durata nel tempo e finisca con esaurirsi, cioè esaurire la sua forza propulsiva. E quindi in questo senso era anche abbastanza logico che questo potesse accadere, come è accaduto, e non c'è dubbio che alla fine degli anni 60 e i primi anni 70 si è creata una situazione di stagnazione produttiva, di inflazione, di disoccupazione, eccetera, eccetera, che imponeva una revisione del modello, una revisione, un abbandono, una riforma. Ecco, il problema è che al solito non c'è una sola via d'uscita, ci sono diverse vie d'uscita possibili. Ciascuna però non è oggettivamente giusta in sé, ma è giusta relativamente a un blocco di interessi. Un conto è uscire in funzione degli interessi dell'accumulazione, un conto è uscire in funzione degli interessi invece di chi aspetta la distribuzione. In particolare, la lettura della crisi del modello keynesiano, la lettura delle crisi è molto importante per capire i possibili rimedi e le possibili riuscite. Si è voluto descrivere il modello keynesiano come inefficiente per il suo eccesso di aspettative. Il modello keynesiano di stato sociale stimolava aspettative crescenti da parte quello che poi è l'elettorato, diciamo la società civile, dei gruppi sociali più numerosi, è quello che verrà dichiarato da, non ricordo male, da Polanyi, siete vissuti all'interno di un sistema di garanzie non sopportabile nel lungo periodo. E quindi occorre rinunciare a molte di quelle garanzie. Adesso vedremo nel merito cos'è accaduto. Sì, questa è una possibile lettura. C'è stato un eccesso di domanda che ha prodotto un eccesso di massimo fiscale. Ma forse non è l'unica lettura possibile. Ad esempio, io vi ho accennato al ruolo della corruzione che è uno degli elementi importanti della, se non voglio lasciare gli ultimi decenni, e che tuttora rappresenta una voce cospicua, poi vedremo. Però vedete, c'è anche altro, c'è anche un forte processo di burocratizzazione che è stato prodotto dallo Stato sociale. Vi voglio fare solo un piccolo esempio per vedere come le cose si possono leggere anche in modo diverso. A un certo punto si calcola che per ogni 100 lire di accantonamento per il fondo pensioni destinato all'INPS, per pagare poi le pensioni dei lavoratori, 60 erano assorbite dallo stesso apparato dell'INPS per funzionare e solo 40 andavano alle prestazioni pensionistiche. Più tardi si scoprirà che l'INPS aveva acquistato un patrimonio immobiliare per circa 5.000 miliardi di lire del tempo, 2 miliardi e mezzo di euro attuali, ma che questo patrimonio, cospicuo patrimonio immobiliare, rendeva infinitamente meno di quello che avrebbe dovuto rendere. È chiaro che l'investimento immobiliare è rivolto a un doppio effetto: da un lato investire in qualcosa destinato a rivalutarsi nel tempo per costituire un capitale di ammortamento, no? Di garanzia, dall'altro però per ottenere una qualche rendita nel frattempo. La rendita era molto molto bassa, anzi addirittura in qualche caso era inferiore alla pressione fiscale, per la semplice ragione che quel patrimonio immobiliare in larga parte era concesso in affitto a condizioni di assoluto favore, cioè a costi assolutamente inferiori a quelli di mercato, a esponenti sindacali e politici di tutti i partiti e di tutti i sindacati, nessuno escluso, che in realtà questo aveva dato luogo a una forma di sovvenzione surrettizia del ceto politico e sindacale. Ancora, è successo ad esempio che si è scoperto che a un certo punto ogni 100 lire stanziate dagli enti regione per l'assistenza agli immigrati, bene, per ogni 100 lire 85 vanno a mantenere le organizzazioni di cosiddetto volontariato, che mantengono più di tutti i propri funzionari, i propri dirigenti, le proprie sedi, e 15 vanno agli immigrati. Io direi che già in questi dati c'è una risposta. Certo che c'è il modello di inefficienza economica, perché quando tu arrivi a spendere il 60-80% del tuo flusso finanziario per mantenere l'apparato e solo la quota residuale per le prestazioni per cui l'apparato è pensato, è un po' come se tu avessi una macchina che consuma il 60-70% del carburante per mettersi in moto e quello che rimane per fare qualche metro. È evidente che è altamente diseconomico e inefficiente un sistema del genere, ma non perché ci sia un eccesso di prestazione, perché c'è un eccesso di burocratizzazione, perché c'è un carico burocratico eccessivo, e questo è uno degli aspetti che è stato largamente sottovalutato, forse intenzionalmente, perché era più opportuno dare un'altra lettura. Però, come vedete, attenzione a dare per scontate letture storiche e conseguenti decisioni politiche senza farvi un'idea vostra, approfondendo cose che di solito sono molto più complesse di come ci vengono spiegate. Probabilmente questa è una delle dimensioni della crisi del modello che usiamo, che andava preso in considerazione, che guardate bene, continua a incidere ancora oggi. Noi abbiamo ridotto la spesa sociale ai danni della prestazione, ma non abbiamo intaccato, per esempio in Italia, il surplus di personale, per esempio il pubblico impiego, i tassi di diseconomicità nella distribuzione della forza lavoro della pubblica amministrazione, e così via. Ma ci torneremo in un'altra occasione. Bene, iniziamo la lezione di oggi. Ora noi dobbiamo passare al discorso della globalizzazione. cioè dal progetto alla sua realizzazione e i suoi esiti. Per fare questo dobbiamo fare qualche precisazione iniziale, qualche premessa metodologica. Voi mi permetterete di farlo. Primo, voi sapete che ogni società ha il problema di governare le dinamiche sociali, economiche e culturali che la attraversano. Ma la governabilità di un processo è direttamente proporzionale alla sua prevedibilità. Solo se noi sappiamo con buona approssimazione, non dico con esattezza perché una probabilità è pur sempre una scommessa, non è una certezza, è probabile più o meno che tu vincerai la lotteria, anche se si sono venduti 3 biglietti della lotteria, 2 biglietti della lotteria e tu ne hai uno dei due, tu hai il 50% di probabilità di vincerlo, non hai la certezza. Quindi anche una probabilità del 90% è pur sempre una scommessa, non è una certezza. Però almeno avere dei modelli previsionali affidabili per cui abbiamo una buona probabilità di individuare le tendenze in atto, io vi ho già spiegato che per i meccanismi della complessità noi possiamo prevedere le tendenze, non gli avvenimenti. I singoli eventi non sono prevedibili, però possiamo prevedere le tendenze. E allora il problema qual è? Il problema è sempre quello di avere effetti controintuitivi, per cui io prendo una certa misura per ottenere certi effetti e me ne trovo altri completamente diversi. Vi faccio un esempio. Io prendo come misura per combattere la clandestinità degli immigrati l'obbligo dei medici di denunciare dei medici sia privati che delle strutture pubbliche, di denunciare il loro cliente immigrato clandestino. Questo dovrebbe capire, prima o poi hai bisogno del medico, devi andarci, tu ci dai e quello subito dopo ti denuncia. Questo dovrebbe rendere la vita più difficile al clandestino, quindi in qualche modo scoraggiare la clandestinità rendendo efficace il meccanismo di espulsione. E poi però magari succede un'altra cosa. Ovviamente il clandestino, sapendo di rischiare questo, tenderà ad evitare di andare dal medico il più possibile, o magari si rivolgerà a un medico che sa, compiacente, che fa finta di niente, lo punta senza rinunciare. Bene, possono esserci 3 conseguenze di questo comportamento. Primo, il medico magari è uno che rifiuta di denunciare per questioni etiche, per questioni di condizioni personali, e va bene, poco male, in questo caso la questione finisce lì, al massimo potremo fare un impiego al medico dal punto di vista penale e disciplinare, se lo indica. Ma ci sono altre 2 conseguenze molto meno desiderabili. Primo, che il medico che si presta a questo in cambio di denaro, o magari lo fa per un'organizzazione criminale, e noi ci troviamo improvvisamente una forma di sfruttamento di mafia in più. Abbiamo creato un bisogno indotto che produce una disponibilità a delinquere di persone che magari senza quel bisogno l'avrebbero avuta meno. Altra possibile cosa, quindi in questo caso abbiamo azionato una misura per reprimere un fenomeno sociale, l'immigrazione clandestina, abbiamo una risposta su un altro piano, che è quello della crescita della criminalità. Oppure l'immigrato, sempre per paura, non avendo a disposizione proprio nessun medico, non ci va proprio, cerca di curarsi come può. E magari si è ammalato di una malattia contagiosa a carattere epidemico. Questo diventa automaticamente un pericolo sociale molto più forte, perché tutto questo produce un vettore di infezioni, un vettore di contagio molto maggiore del caso in cui quel miracolo sia potuto per esempio essere ricoverato immediatamente. Allora, noi abbiamo fatto una manovra sul piano immigrazione clandestina, ma abbiamo avuto un effetto totalmente controintuitivo sul piano della sanità pubblica. Ecco, vi ho fatto questo esempio proprio banale, spicciolo, per spiegarvi come il problema della gestione di una società globalizzata come la nostra accentua fortemente il rischio di effetti controintuitivi, effetti imprevisti e non desiderati. Bene, e allora veniamo al problema di come si può prevedere qualcosa. La prevedibilità è inversamente proporzionale a tre fattori: al numero di soggetti, di fattori e di interazioni, adesso vediamo, all'opacità dei processi, alla velocità dei processi. Allora, beh, in primo luogo si capisce che più sono i soggetti che intervengono in un gioco e più evidentemente diventa difficile prevedere. Quanti di voi hanno mai giocato a dama cinese? Uno, vedi, la dama cinese che caratteristiche ha? Caratteristiche. Come è fatta? La dama. No, allora non è quella la dama cinese, quella che intendo io. La dama cinese è fatta da 6 giocatori diversi. Ha una scacchiera, in realtà non esattamente una scacchiera, a forma di stella di Dante, due triangoli sovrapposti uno all'altro, un esagono con, e ciascun giocatore muove a turno. Ora, un conto è se io ho un solo avversario e ho il problema di prevedere che mossa farà lui. Un conto è io devo prevedere dopo di me che mossa farai tu, però a quel punto io devo prevedere che mossa farà lui sulla base di che mossa fai tu. Poi devo prevedere che mossa farà lei sulla base delle vostre mosse precedenti e così via. Voi capite che si moltiplica in proporzione geometrica il numero di possibilità. Cioè, un conto è io devo prevedere la sua mossa e magari gli altre mosse possibili davanti. Lui invece, poniamo, ne ha altre 3, però 3 in base a quelle che fa lui, quindi a quel punto sono 9. Lei ne ha 3 sempre, ma sulla base di quelle che fa lui, quindi sono 27 e così via. Adesso sto banalizzando. Più alto il numero dei giocatori, più decresce la possibilità di prevedere l'effetto probabilmente realizzabile. Ancora, più è il numero dei fattori, è perché un conto è che io devo prevedere soltanto fattori di natura militare, ma se io devo prevedere insieme, i fattori di natura militare prevedono anche fattori di natura economica, per cui la possibilità o meno di correre a certi armamenti è collegata alla dinamicità economica del soggetto che ho davanti. Se quel soggetto non ha un dinamismo economico sufficiente, farà altri armamenti, farà altre cose, ma l'economia a sua volta è funzione di altre cose. Ecco, quanti più sono i fattori in gioco, evidentemente diventerà complesso prevedere il risultato finale. Infine, quanto più alto il livello di interazione, per esempio fra scenari molto diversi, un conto è prevedere Europa del 1914, magari per prevedere le possibilità di confronto militare dobbiamo tenere presente una serie di fattori militari, economici, sociali riguardanti Russia, Italia, l'impero austro-ungarico, eccetera. Quello che succede in Brasile ce ne frega molto poco. Ma nel mondo della globalizzazione, dove quello che succede in Nuova Zelanda può ripercuotersi immediatamente in Argentina, e tutto questo voi capite che invece aumenta enormemente il livello di interazione, sia geografiche, sia di vari livelli. Cioè, è evidente che se una misura di carattere economico ha un'immediata ricaduta di carattere sociale, che a sua volta può mettere in moto meccanismi di tipo culturale e così via, fino a creare un circuito che dà effetti prevedibili, più alto il livello di interazioni, più il processo diventa imprevedibile. Secondo, secondo, è ovvio che la prevedibilità è legata alla trasparenza. Io devo avere i dati esatti. Se non ho i dati esatti, esaustivi e veritieri, io per sapere quale sarà la prestazione di un determinato titolo in borsa, primo devo sapere veramente qual è il bilancio dell'azienda. Devo sapere, qui devono essere veritieri, devono essere esatti, cioè non mi posso accontentare di dati approssimativi, magari molto approssimativi. Devo avere dati precisi. Terzo, devo avere dati esaustivi, perché se ne ho alcuni e non ne ho altri, io non riesco a formulare notizie, no? Quindi il tasso di trasparenza è direttamente proporzionale alla credibilità. Se io invece non ho a disposizione quei dati, perché il processo presenta degli aspetti di opacità, quel processo diventerà poco prevedibile per me. Infine, la velocità, e questo è intuitivo. Quanto più il processo è lento, più abbiamo tempo di esaminarne le manifestazioni, di studiarle, di pensarci su. Quanto più il processo è veloce, e tanto più i nostri tempi di decisione si riducono e aumenta la probabilità di una decisione sbagliata. Questo credo che sia esperienza comune, non ha bisogno di ulteriori esemplificazioni. Bene, partendo da queste, quindi mettetevi bene in testa questa formula: la prevedibilità è inversamente proporzionale al numero di soggetti, fattori e interazioni, alla opacità e alla velocità dei processi. Ci siamo? Bene, la rivoluzione neoliberista che cosa ha prodotto? Adesso proprio come valutazione di ordine generalissimo. Primo, è stata un formidabile acceleratore del tempo. Anche per effetto delle tecnologie, non è stato solo il problema della liberalizzazione degli scambi. Voi pensate solo a una cosa, al fatto che voi potete corrispondere con una persona a distanza di migliaia di chilometri in tempo reale attraverso la rete. Potete prendere una decisione, potete assistere in diretta a qualsiasi evento si stia realizzando in questo momento, a condizione che ci siano delle camere per prenderlo. Quindi la velocità di aumento l'aumento di velocità dei trasporti, che ha degli effetti imprevedibili. Ad esempio, vi ricordate l'anno scorso l'epidemia di influenza messicana, la suina, che peraltro dette luogo al timore di una grande pandemia, su questo torneremo, che poi non c'è stata fortunatamente. E questo è un classico esempio di che cosa significa la velocità. Noi ci siamo trovati di fronte a un fenomeno per il quale nel giro di pochissimi giorni si sono manifestati casi di influenza in Messico, in Scozia, in Norvegia, in Corea. Nel giro di pochi giorni il virus aveva fatto il giro del globo. E lo aveva fatto come? Lo aveva fatto addosso ai viaggiatori che ogni giorno in aereo si spostano da un angolo all'altro del mondo, quindi portando con sé il vettore dell'influenza, essendo loro vettori del virus. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto per esempio un mandato di panico, di decisione da assumere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui in previsione di una pandemia generalizzata che si sarebbe verificata in autunno, abbiamo prodotto decine e decine di milioni di scoppie, decine e decine di milioni di vagoni di vaccino, che sono rimaste totalmente invendute e buttate via con un danno economico facilmente immaginabile. In questo caso, per fortuna, non abbiamo avuto la pandemia, però un danno economico c'è stato, una decisione sbagliata che ha prodotto un danno economico. Cioè, certo, peggio sarebbe stato se avessimo fatto il contrario, non avessimo preso alcune misure e fosse scoppiata la pandemia. Mi sta chiedendo qualcosa? Sì. Ovvio, ma quello basta, basta dire, è normale, è certo che c'è sempre qualcuno che ci guadagna. Per la collettività certamente è stato un danno. Ecco, questo è un esempio di come una decisione assunta in condizioni di ignoranza e però in te, prendiamola per buona come esempio, prendiamolo per buono, e in tempi necessariamente stretti ha prodotto un errore, per esempio con un costo economico per la collettività. Secondo aspetto della rivoluzione neoliberista è stata una moltiplicazione di attori, di fattori e di interazioni. Beh, di attori è facile capirlo perché per esempio la fine del mondo in due blocchi e quindi del bipolarismo, la comparsa di attori per esempio di natura non statale, dalle ONG alle organizzazioni terroristiche alle associazioni criminali o di pirateria per esempio, che sono attori dello scenario globale più o meno forti, più o meno potenti, ma che non possono essere ignorati. Ha prodotto una moltiplicazione delle interazioni, e pensare sia alla dimensione globale del globo, appunto, diventato all'improvviso veramente il villaggio globale di cui parlava Newman, sia perché, abbiamo detto, la parola globale ha quell'ambiguità di significato per cui significa sia la dimensione del globo terrestre, sia globalità dei problemi per cui ha un'azione di carattere culturale corrisponde a una serie di azioni su altri piani, sociale, economico, politico, militare, che sono interdipendenti fra loro. E ha aumentato il livello di interdipendenza. Pensate a una cosa, pensate agli effetti dell'eruzione del vulcano islandese. È bastato che ci fosse una eruzione, basta qualche giorno, per tutto sommato, si è trattato, ma noi per 4-5 giorni abbiamo avuto la paralisi del traffico aereo con una serie di ricadute economiche molto forti. Quindi vedete come, perché la nostra società è fortemente strutturata, per cui un giorno di fermo del traffico aereo ha ripercussioni immediate ed estremamente dilatate. Abbiamo avuto una moltiplicazione di fattori, perché per esempio aspetti che noi ritenevamo superati, l'approvvigionamento alimentare è diventato un problema molto serio, ne parleremo. Altro aspetto della rivoluzione neoliberista: c'è stata una forte caduta dei tassi di trasparenza. Poi vedremo un po' meglio che cosa significa questo, anche a causa della deregulation. Voi ricordate che uno dei 10 punti del consenso di Washington è la deregolamentazione, quindi la tendenza alla massima libertà di azione dei capitali. Questo ha prodotto degli effetti, poi vedremo di che tipo, per cui è caduto il tasso di trasparenza. I processi sono diventati molto più opachi. E vedremo che cosa significa questo quando parleremo delle premesse della crisi del 2008 e dei casi Enron e Parmalat. Ne parleremo. Soprattutto la globalizzazione ha prodotto un capitalismo di tipo diverso dal passato. Certo che noi continuiamo a vivere in un'epoca di tipo capitalista. Però sono state date varie definizioni, ad esempio George Soros ha parlato di turbocapitalismo, altri hanno parlato di ipercapitalismo finanziario. In che cosa è diverso questo capitalismo del passato? È un capitalismo iperalimentato, è un capitalismo che si fonda sulla crescita delle aspettative, per cui c'è un problema, è un capitalismo che realizza i suoi guadagni in modo previsionale. In che senso? Beh, tutti gli investimenti realizzano guadagno su una previsione. In questo caso il guadagno è speso prima di essere realizzato. Questo è un aspetto importante, adesso ne parleremo. Questo fa sì che sia cresciuta la dimensione informativa, anche questo lo spiego fra un minuto. Poi tutto questo ha portato a una moltiplicazione delle forme di rischio e in conseguenza a una forte opacità. Quindi un capitalismo iperambientato, largamente previsionale, virtuale, caratterizzato da una molteplicità di forme di rischio e opaco. Vediamo un po' nel momento. L'iperalimentazione del capitale da cosa è stata determinata? Primo, c'è stato un fortissimo aumento della massa di circolante per una serie di effetti. Prima di tutto ha inciso fortemente l'evoluzione della moneta con la nascita della moneta elettronica. Tutto questo si è tradotto, ad esempio, in una forte propensione del credito al consumo. È quello che avete in tasca, ragazzi, che è la carta di credito. La carta di credito, cos'è? Se non un mutuo che vi permette di spendere oggi quello che incasserete alla fine del mese. Voi oggi fate la spesa, il supermercato manda il vostro cedolino, la banca presso qui appoggiato il vostro LID paga il fornitore e alla fine del mese la banca presenta il conto alla carta di credito, la carta di credito la manda a voi. Per la verità è un po' più di un mille. Che cosa è successo? È come se noi avessimo improvvisamente deciso di far credito a tutti i possessori di una carta, varie mille, svariate decine di milioni di persone. Beh, in Italia non è eccessivo stimare 15-20 milioni le carte di credito, ma negli Stati Uniti i valori sono molto più elevati, e come se noi avessimo deciso di fare un credito di 1.500-2.000 euro a ciascun possessore di carte di credito, cioè a 15 milioni di persone. Fate i conti di che cifre si raggiungono. In realtà è come se in un anno le mensilità, che poniamo sono 13, fossero diventate 14, con il riporto di una mensilità all'anno successivo e così via. Abbiamo aumentato la massa di circolante di un dodicesimo, diciamo, già in questa maniera. Poi pensate a una cosa, pensate che per esempio negli Stati Uniti la propensione al rischio è molto maggiore. In Italia difficilmente troverete una banca, intanto a voi che siete ragazzi non so quante banche darebbero la carta di credito e con che nome qui, e se non se con garanzia del papà. Ma anche a qualsiasi lavoratore la carta di credito viene data per 2.500 euro di spesa, 3.000, va bene? E negli Stati Uniti la pratica del tetto è molto meno diffusa, e anzi c'è un meccanismo per il quale si consente di rateizzare l'eventuale disavanzo mensile, ovviamente per gli interessi, che naturalmente se io guadagno 1.000 dollari, ne ho spesi 1.100, alla fine del mese mi trovo 100 dollari da pagare con interessi, per cui poniamo saranno 101 dollari al mese successivo. Nel mese successivo continuo a spendere 1.100 dollari e a incassarne 1.000, il disavanzo non sarà più di 100 ma di 201. Al terzo mese il disavanzo sarà di 303 e così via. Il risultato è che, secondo stime peraltro molto aleatorie, perché dati precisi in questo senso non se ne hanno, c'è una sofferenza media di 73.000 dollari per carta di credito negli Stati Uniti. Non so se avete idea del volume di soldi che questo comporta. È chiaro che dentro ci sono anche molti interessi composti. Pensate alle rate auto, altra cosa che viene concessa con estrema facilità dalle banche, anche perché c'è la clausola riservata di dominio sulla macchina, sul bene, e anche quelle sono entrate poi in sofferenza. Quindi, come vedete, forte propensione di credito al consumo, che certamente ha stimolato aumentato la velocità di circolazione del denaro e quindi di conseguenza ha sorretto anche la produzione. Non c'è dubbio che la globalizzazione del neoliberismo abbia avuto un'epoca di forte ascesa, sostenuta in questa maniera, ma soprattutto a iperalimentare il capitale finanziario in questi anni hanno provveduto in varie forme i meccanismi di assorbimento dell'accumulazione operaria e del ceto medio. Mi spiego meglio. Il grande compromesso socialdemocratico che ha dato vita al welfare, diciamo al centro del secolo, nel quarantennio, cinquantennio, che va dagli anni 30 ai primi anni 80, ha prodotto per la prima volta nella storia prima di tutto un robustissimo ceto medio. Il ceto medio, che agli inizi del secolo nelle società avanzate rappresentava una fetta ancora minoritaria della società, grosso modo un 15-20 per gli impiegati, i professionisti, gli insegnanti, i commercianti, un certo artigianato, una certa piccola proprietà contadina, rappresentavano realisticamente non più del 25% della società complessiva, mentre invece la grande parte della società era il lavoro manuale dipendente, il lavoro salariato. Verso gli anni 70 la situazione vedeva il ceto medio ormai sfiorare il 50% e le classi invece lavoratrici di lavoro dipendente scendere sotto la quota del 50%, scendere anche verso il 40%, 40-42%. Quindi si è creata una robusta classe, una robusta rete di classi medie anche dal punto di vista del reddito, che quindi avevano capacità di accumulazione. Ma anche la classe operaia ha goduto, sia pure in ritardo, cioè il lavoro salariato, ha goduto di condizioni salariali migliori del passato e soprattutto di molto salario indiretto, l'assistenza sanitaria, la pensione, quello è salario riferito per la verità, le vacanze retribuite, eccetera, la malattia retribuita, eccetera. Cosa che però nel futuro non va bene. Certo, no, qui lo potete scordare, e adesso lo spiego. Tutto questo ha consentito forme di risparmio. Insomma, ragazzi, se voi state qui, voi siete gli ultimi beneficiari indiretti dello Stato sociale. Voi state qui perché i vostri genitori godono ancora di una serie di garanzie. Probabilmente molti dei vostri genitori qui sono o lavoratori dipendenti o professionisti, commercianti, cioè gruppi sociali che hanno avuto modo di avere garanzie di reddito, di stabilità, di accumulazione di risparmio, che consentono per esempio a voi di stare qui a fare lezione all'università. Io non so se i vostri figli avranno questa opportunità, ma questo può risparmio con una lezione dedicata agli effetti sociali. Mi auguro di sì, non sono però tanto sicuro. Tutto questo ha fatto sì che si siano creati cospicui. Quando io vi ho fatto vedere, vi ricordate la progressione di ieri, vi ho fatto vedere l'indice di concentrazione della ricchezza per cui l'1% più ricco della popolazione americana, che possedeva il 50% della ricchezza nazionale, nel 75 era arrivato al 25% della ricchezza. Questo perché? È perché quel differenziale del 25% si era distribuito sulle altre classi. Ecco perché era sceso l'indice di concentrazione della ricchezza. Bene, tutto questo ha creato delle forme di accumulo che sono state letteralmente espropriate dal gruppo capitalista attraverso quali meccanismi? Primo, l'infernale meccanismo delle pensioni integrative. Verso i primi anni 80 si comincia a spiegare alla gente, ma poi il fenomeno che verrà spiegato negli anni 90, che è una pensione sola non basta mesi cominciate a pensare a una seconda crisi, mettete da parte denaro. Cos'è successo? È una fascia rilevante, soprattutto di ceto medio, ha investito nelle pensioni di integrative. Naturalmente che succede? Che per avere la pensione integrativa tu devi avere un certo numero di anni di versamento, insomma, ora non so se esattamente sono 10 o 15 o 20 la soglia minima. Comunque ci sono anni durante i quali tu versi senza percepire nulla. Quindi cosa c'è stato? C'è stato per un lungo periodo un gettito di denaro alle banche e alle compagnie assicurative senza uscita, senza ritorno, perché il ritorno sarebbe avvenuto dopo, dovrebbe iniziare ad avvenire più o meno da adesso in poi. Quindi il mercato finanziario è stato riempito di versamenti in cambio di nessuna prestazione attuale. Dopo 15-20 anni tu avrai la pensione integrativa. Adesso vedremo quanti avranno. Questo ha naturalmente assorbito una bella fetta di quel risparmio dei ceti medi di cui vi ho parlato. Non solo, c'è stata un'altra cosa negli anni 80 che ha avuto una forte importanza dal punto di vista ideologico. C'è stato il cosiddetto capitalismo di massa dei fondi comuni di investimento. Siamo tutti diventati capitalisti, tra virgolette. Cioè nascono alcune società che comprano un certo numero di titoli, fanno dei portafogli investiti secondo il principio economico di equilibrare il rischio differenziandolo. Per cui io compro un 5% di azioni delle Generali, poi compro un 3% di azioni della Fiat, poi compro un po' di azioni della Coca-Cola e così. Alla fine faccio un portafoglio e vendo a voi dei titoli per cui voi siete, sia pure indirettamente, azionisti della Fiat, della Coca-Cola, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, delle Generali e così via. In questa maniera, da un lato, tutti hanno la sensazione che il capitalismo finalmente non è più qualcosa di concentrato, ma qualcosa di diffuso. Quella ricchezza diffusa e non concentrata di cui vi ho parlato assume una sua forma anche simbolica. Tutti diventiamo padroni di qualcosa. Peccato che però in realtà questo è soltanto una dimensione simbolica, perché tu sei il padrone di che cosa? È solo di cuore, di quel fondo comune che viene governato da altri che decidono per te come investire quel denaro. Ancora una volta che cosa è successo? È successo che il capitale finanziario attraverso i meccanismi dei fondi comuni di investimento ha assorbito per esempio le liquidazioni, i trattamenti di fine rapporto di lavoro. Classico, negli anni 80 il lavoratore, soprattutto magari il tecnico specializzato, il piccolo dirigente di azienda, il dipendente del pubblico impiego di livello medio alto, che ricevendo una liquidazione consistente, diciamo di diverse decine di migliaia di euro attuali, decideva di investirla come? Nei fondi comuni di investimento che, pensate, all'epoca sono arrivate ad offrire il 33% anticipato. Tassi, ma neanche in usura vi può garantire una cosa del genere. Beh, queste erano le vette, il 33% anticipato. Poi in realtà la media era molto più bassa, a girare intorno al 6-7% netto sul tasso di inflazione, però è già tanto. Poi naturalmente in tutto questo a un certo punto è entrato classicamente il fattore truffa. Io ricordo per esempio in televisione il meccanismo più semplice di questo mondo, funziona sempre con i bonzi, il meccanismo della catena di San Antonio, per la quale io mi presento e dico: senti, se tu mi dai 100 lire, io te ne ridò subito 20. Cioè, in realtà, tu mi dai 100 lire, mi dai 80 lire e io ti rilascio la ricevuta di averne ricevute 100. alla fine dell'anno tu reinvesti quelle 100 lire e io ti do una ricevuta per 120 o 122 e così via. A questo punto lui trova che nessuno gli offre una remunerazione sul capitale maggiore ed è portato a investire tutto quello che gli do. In parte io copro questo semplicemente con l'aumento di una promessa, cioè sto semplicemente gonfiando il conto di quello che io un ipotetico giorno gli liquiderò come sue spettanze. Da un altro lato, siccome una parte tira effettivamente gli interessi, cioè investe il capitale ma si tiene gli interessi, io come pago interessi così alti suoi? In due maniere: o lavorando nel settore dell'illegalità, traffico d'armi, droghe, eccetera, che sono le uniche cose che producono quei tassi di profitto, oppure come? Truffando lui, perché lui che ha visto lui investire mi dà i soldi e io con i soldi suoi pago i suoi interessi, poi con i soldi suoi pago gli interessi a lui, con i soldi suoi pago gli interessi a lui, fino a quando alla fine brucio tutto e scompaio e tanti saluti. Ci fu un caso del genere in televisione, mi ricordo un certo Mendella che citò addirittura un canale televisivo, fece la cosiddetta retina, nella quale faceva prediche contro la droga, eccetera, tutte cose molto edificanti. Lui si presentò così, dicendo: io mi chiamo Gianfranco Mendella, ho i seguenti precedenti penali: truffa, assegno scoperto, assegno a vuoto, raggiro, appropriazione indebita, eccetera, cioè un calo della grazia. Quindi se qualcuno pensa di fare uno scoop, ve lo dico io ho questi precedenti penali, però sono cambiato e voglio lavorare per voi, sono diventato onesto. E la gente gli dette i soldi. Io ragazzi penso una cosa, che il reato di truffa vada abolito e vada penalizzato il truffato, perché uno che è così imbecille da dare soldi a uno che si presenta in questa maniera è giusto che venga punito con la reclusione, perché è istigazione alla crimine. Se sei così cretino, ecco il meccanismo qual è. In me in mezzo ci capitavano anche personaggi di certo rilievo, qualche noto cantante, per diversi calciatori di Serie A. Meccanismo qual è? In realtà la gente è stupida ma un po' meno. Il meccanismo era questo. Sì, Mendello è delitto, quindi sicuramente farà affari sporchi. Investirà quei soldi appunto nei traffici di cui vi ho parlato. Io però sono una persona onesta, non so niente. Io gli do i soldi e lui mi dà. Io sono una persona pulita. L'idea era, diciamo la verità, di guadagnare sull'affare sporco mantenendo le mani pulite. Il meccanismo finale fu che a garanzia di tutto questo Mendella offriva schiere di improbabili individui in Romania all'epoca. Quanto di meno probabile possa esistere in natura. Il risultato è che a un certo punto Mendella un giocatore sparì. E questi rimasero fregati. Ecco, questo è stato un meccanismo classico di iperalimentazione del capitale. Ancora, vi dicevo, la crescita delle aspettative, perché? E voi capite che in un mercato del genere, tutto basato sulla dove il guadagno è speso al momento della previsione, non del realizzo, questo è il punto. Il famoso effetto leva, per cui tu mi dai 10 dollari che io ne presto 100 a lui che ne presta 1000 a quell'altro, è tutto basato sul fatto che noi riteniamo solvibili tutti i passaggi e soprattutto riteniamo che questi affari realmente abbiano una probabilità di un rimborso. Chiaro? Quindi diventa fondamentale l'informazione, la previsione, il sogno di qualcosa che sia più veloce del denaro. Le agenzie di rating sorgono delle agenzie che hanno questo scopo specifico. Io piazzo in borsa dei miei titoli la Aldo Giannulli Spa, va bene? Poi vado sia il hacking, tutto basato sulla riflessione. Paolo è un grande esperto di economia, ha dei modelli matematici raffinatissimi, gli esibisco tutti i miei bilanci e lui, sulla base dei suoi modelli matematici, verifica se la mia offerta di titolo di redditività è fondata o meno e mi darà un giudizio in tre lettere: ABC, semplice, doppia o tripla. Triple A significa solvibilità assoluta, dormi fra due guanciali, affari spesso. Doppia A lo stesso, e man mano naturalmente che si scende di lettera e di numero di lettere, scende la solvibilità, aumenta la probabilità di rischio. Quindi naturalmente il meccanismo qual è? Più una cosa è garantita, più ovviamente attira capitali. Magari io non do interessi altissimi, però ho una triple A di, per esempio, Moody's, che è una delle più grandi compagnie di rating a livello mondiale, che gode di un prestigio indiscusso. A questo punto che cosa succede? Succedono due cose. Uno, che le agenzie di rating finiscono per avere un potere molto maggiore di quello che non sarebbe in realtà. Perché voi pensate, la Parmalat, che riceveva un livello molto alto dalla compagnia di rating di cui si era affidata, pagava come parcella l'agenzia di rating 170.000 euro all'anno. Ora, rispetto ai guadagni che questo significava, voi vi rendete conto che 170.000 euro sono veramente una soffiata di naso, non hanno praticamente alcun peso nell'economia finale. Chiaro? Dall'altro lato, questo però significa che c'è anche un meccanismo di spionaggio reciproco. E perché io, per sapere che cosa stai facendo tu che offri in banca quel titolo, devo in borsa, devo vedere che stai combinando, anche perché magari la tua iniziativa sta danneggiando la mia. Poi magari io sono anche interessato a fare uno scandalo su di te, perché quelle quote di investimento che verrebbero su di te magari vengono finite. Questo porta a un ulteriore fenomeno: lo sviluppo, la crescita degli apparati di intelligence. L'economia diventa sempre di più un fenomeno informativo, il capitale comincia ad avere una sua dimensione di capitale informativo. Quanti di voi hanno visto il film Wall Street? Vi ricordate Jacko? Ecco, Jacko è il classico squalo da speculazione finanziaria a Wall Street, che a un certo punto dice al giovane aspirante squalo che va da lui e lo ha eletto a suo maestro, gli dice: guarda, non conosco come per commodity, voi sapete cosa sono, il rame, il piombo, no? Cioè, non conosco commodity maggiore dell'informazione. Gli altri fuori lanciano razzetti a caso, io vado sempre a colpo sicuro, perché quando ho investito so già che guadagno c'è. E come lo so? Perché io ho informazioni riservate, so già l'altro cosa hanno in portafoglio. Questo per esempio porterà alla nascita e allo sviluppo di importanti apparati di intelligence finanziaria. Tu avvisami quando siamo verso le 12.10, quando si arriva a costituire una società come la Kroll. La Kroll sarà definita la CIA di Wall Street, una agenzia investigativa, diciamo, un'agenzia informativa di livello planetario, tutta pensata in funzione del mondo finanziario. Ma ce ne saranno anche altre, ad esempio, il caso più noto è il caso della struttura informativa messa su dalla Telecom quando ancora era presidente Franchetti Provera, e se porterà poi al raggiungimento di Abu Omar, tutta la vicenda che voi probabilmente avete letto. Ma cresce anche il ruolo degli apparati di intelligence statali che scoprono la guerra economica. Ne riparleremo di questa cosa. Ancora, questo capitalismo è caratterizzato dalla moltiplicazione delle forme di rischio, per le quali si cerca di frazionare il rischio e scaricarlo sull'investitore. Dai vecchi fondi comuni di investimento germoglieranno una serie pressoché infinite di contratti, i derivati, i bond, eccetera, l'incrocio di queste cose. Tutto questo sarà a sua volta implementato dalla opacità. Opacità che protegge due cose. L'opacità è il prodotto di due componenti. Da un lato la intensa regulation, che permette ad esempio un incremento assolutamente fuori misura dei falsi in bilancio. Guardate che non è un caso che in Italia si sia arrivati a depenalizzare il falso in bilancio. Qualcuno osservò, anzi addirittura diventerà una referenza. I casi Enron e Parmalat, di cui parleremo, sono tutti prodotti di questa caduta dei tassi di trasparenza dovuta alla deregulation. Accanto a questo c'è un altro fenomeno, quello dei fondi sovrani. Cosa è successo? È successo questo, che in prima in modo del tutto occulto i paesi che vendevano materie prime, primi fra tutti i paesi islamici con il petrolio, dopo si aggiungerà anche la Cina, hanno costituito società fittiziamente private, anzi qualche volta neanche pubbliche, che trasformavano i loro proventi in quote di debito pubblico di altri stati, di quote di investimento in banche, aziende, in forme di ricchezza. Questo è stato scarsamente percepito fino a un certo periodo, fino a quando non sono emersi con prepotenza i soggetti dei fondi sovrani. I fondi sovrani rappresentano, sono i fondi in qualche modo di natura statale, rappresentano dei soggetti assolutamente nuovi e totalmente opachi, di cui noi sappiamo molto poco. Qualche cosa magari diremo a proposito dei fondi sovrani cinesi quando verrà tagliato. Bene, io adesso dovrei proseguire introducendo il discorso della crisi, ma manco se mi sparo ci riesco, per cui mi fermo qui, facciamo qualche minuto di discussione, riprenderemo il discorso di qui, parlando della crisi, nella prossima lezione. Vi faccio vedere anche una slide. Oggi proprio giornata, no, va bene, allora, forza, domande, osservazioni? No, aspetta un attimo, perché tanto questa lezione si spezzerà in due, io non lo so quando recupererò questi ritardi e queste cose. Voi siete disposti a fare una lezione in più, vero? Sorridete. Che qualcosa devo superare, allora domande, osservazioni? Sì, lei è? Mingo, sì. Una cosa, il sistema Ponzi, quello delle catene di subfondi, è stato anche quello usato da Madoff in America, che insomma ha fatto una sentenza dappertutto. Il meccanismo della catena di Sant'Antonio è il meccanismo di truffa più finanziaria più antico del mondo, funziona sempre. È una riprova della legge scientifica per cui la madre dei cretini è sempre incinta. C'è il problema. Fino a quando ci saranno cretini funzionerà questo meccanismo. Sempre. Poi. te per esempio. Ah, scusi, come ne hai? Non so, però. No, scusa, era una cosa che abbiamo con un economista che ci aveva parlato della bolla del carte di credito in America, soprattutto come la prossima principale carta di credito. Scusi, volevo sapere se per lei arriverà prima questa bolla o quella crisi di cui ci parlava qualche se ne fa sul 2012, la scadenza dei adesso non mi viene in mente il nome, però insomma quella scadenza del 2012 così e così. Sì, no. Poi. Quando Obama nel marzo l'assorbimento delle sofferenze bancarie da parte dell'amministrazione, questo dette respiro, e infatti si cominciò a parlare di fine della crisi. Per cui durante l'estate e i primi dell'autunno c'era un'euforia di questo respiro, si parlava di ripresa entro il 2010 a fine del 2011. Entusiasmo assolutamente al di posto, perché in effetti, come si vede, per quello che è accaduto per Islanda, Grecia e quello che sta per succedere, Dubai, eccetera, eccetera, non mi pare proprio che sia un problema. È probabile che arriverà prima l'altra il collasso dei bond, che sono quelli che hanno assorbito, e di è una gara, perché nel frattempo è il caso della bomba, per cui al punto in cui siamo tutto è possibile. Io direi che arriverà prima in qualche modo la bolla del 2012, perché questa la stanno tenendo in sospensione, cioè continui, semplicemente che hai fatto? Fermi il costo del denaro per evitare, infatti siamo a costo del denaro a zero praticamente, semplicemente non viene concesso, però hai evitato la crescita di ulteriori interessi composti, per cui un po' lo congeli il debito, lo fermi, non è che lo stanno pagando, lo stai solo fermando cercando di trattenere i consumi, neanche più di tanto, perché se fermi i consumi automaticamente con il rischio di una recessione generalizzata, per cui diciamo che stiamo navigando a vista. E qui anche la risposta al decadere del credito e al fallimento individuale, dove è evidente che tutto, ne parleremo nella prossima lezione, tutto il meccanismo è stato alimentato da una serie di bolle che si sostenevano fra di loro: la bolla dei mutui, la bolla immobiliare, quella del credito al consumo, rate auto e carte credito, la bolla finanziaria e così via. Il fallimento in realtà individuale, che significa che ti confiscano il poco che hai. Bene, sai che significa questo? Perché hai avuto la crisi dei mutui? Anticipo una cosa: perché a un certo punto la gente si è fatta il conto e ha scoperto che conveniva non pagare la casa e farsela sequestrare e magari andare in vitto, oppure comprare casa in un altro stato, negli Stati Uniti è facile questo meccanismo, o farla comprare alla moglie o pasticci di questo genere, piuttosto che pagare. Io per la casa l'ho pagata al 25%, in realtà mi conviene, mi costa meno prendere un'altra, riprenditi la casa. È lì che sono crollati i costi degli immobili e quindi tutte le garanzie bancarie sono andate in collo. Ultima cosa: la tendenza di eccessi degli apparati è solo italiana? No, in forme di in Italia e in genere nei paesi dell'Europa continentale tende a manifestarsi sotto forma di apparati burocratici del pubblico impiego, della pubblica amministrazione o di enti collaterali sindacati, eccetera. Per esempio negli Stati Uniti assume invece la dimensione di un forte aumento del ceto professionale del periodo degli avvocati. Gli Stati Uniti sono un paese che ha un altissimo tasso burocratico, negli anni 70 un tasso maggiore dell'Europa, però in forme differenziate. Negli Stati Uniti c'è una quota molto importante che è quella adattata in Italia, non dimentichiamo questo, Quindi in realtà dipende molto da situazione a situazione, ma non pensiamo mai a una soluzione univoca. Diciamo che buona parte anche del boom dei cedimenti era dovuto all'aumento del lavoro impiegato, che in gran parte era un fenomeno di questo genere. Oggi, per esempio, il problema si pone in termini diversi. Oggi apparentemente avete una diminuzione degli apparati della pubblica amministrazione, però stranamente non diminuisce il gettito di denaro, anzi, come mai? Perché è nata una nuova figura, quella delle consulenti. C'è una quantità di consulenti strapagate. Non è difficile immaginare che una parte di quelle parcelle finisca nelle tasche dell'assessore, del sindaco, del politico che dà la commissione al consulente, ma c'è una foresta di consulenti. vorrei capire dove e quanto, dove si annida e quanto pesa la spesa di produttività. Questo non è un fenomeno tipico del keynesismo, eh? Questo è un fenomeno che sopravvive anche tranquillamente con altri modelli economici. Va bene. Allora, siete pronti alla prova di evacuazione? Volete iniziare a calarvi dalla finestra, non lo so. Qualcuno va a informarsi per capire che cosa dobbiamo fare. Ah no, dobbiamo aspettare la sirena. Che ora è? Nicola? Nicola? Grazie.